Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di politica, anzi di pensiero politico, del pensiero che ha permeato in questi ultimi secoli la democrazia occidentale, secondo molti un pensiero in crisi, secondo molti altri, tra cui chi vi parla, un pensiero che è ancora in grado di dare molti segnali di vitalità, e cioè il pensiero liberale. Che cos'è questo pensiero e soprattutto come si caratterizza il liberalismo nei paesi europei, quelli nei quali in fondo il pensiero liberale è nato? Rispondono a queste domande due professori francesi, Philippe Nemot e Jean Petitot, che hanno curato la storia del liberalismo in Europa per Rubbettino. Sono 1246 pagine, 56 euro, tradotto da vari personaggi, coordinati da Francesco Di Iorio. Come avete sentito, non è certo un tascabile, 1246 pagine, il libro è denso e ramificato proprio perché vi sono raccolti molti saggi di vari autori europei sulle varie tradizioni nazionali. Ricordo gli autori italiani: Raimondo Cubeddu e Antonio Masala, Flavio Felice, Enzo Di Nuoscio, Roberta Modugno, Luca Maria Scarantino e Dario Antiseri. Questi autori passano in rassegna le varie tradizioni nazionali per cogliere lo sviluppo di un pensiero che, notano i curatori, erroneamente attribuiamo alla tradizione culturale anglosassone. Ormai spesso si dice che il liberalismo è di stampo anglosassone. Invece no, come notano i due curatori, non solo in Francia ma anche in Germania, Italia, Austria, Spagna e altrove, il pensiero liberale germoglia dal ceppo comune della civiltà europea, vale a dire dalla sintesi operata nel Medioevo tra le tradizioni politiche e giuridiche greco-romane e la morale giudaico-cristiana. Esso diventa in seguito più raffinato e complesso grazie al fermento intellettuale che agita l'intero continente a partire dal Rinascimento fino all'Illuminismo e oltre, insomma un blocco di pensiero che ha accompagnato la definizione dell'identità europea e occidentale. E su questo sentiamo uno dei curatori, Jean Petitot, che è un matematico e filosofo e direttore di studi all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Buongiorno a Jean Petitot. Buongiorno. Jean Petitot, lei nella sua introduzione scrive che questo libro vuole analizzare le tradizioni europee non anglosassoni del liberalismo. Ecco, qual è la caratteristica di queste tradizioni non anglosassoni del liberalismo europeo? Diciamo che quello che volevamo fare io e Philippe Nemot, che ha curato il libro con me, era di mettere l'accento sul fatto che ci sono delle grandi scuole continentali di liberalismo e che il liberalismo non è per niente una specificità dei paesi anglosassoni, l'Inghilterra e l'America. D'abitudine si considera che c'è una tale specificità e che dunque per la Francia, per l'Italia, per la Germania, essere liberale e sottomettersi un po' a una cultura anglosassone. E abbiamo voluto mostrare che non è per niente il caso e che i grandi altri paesi europei hanno anche avuto una grandissima tradizione liberale. Quali sono le anime principali che si possono riconoscere in questa tradizione europea? Beh, allora, abbiamo organizzato il libro in grandi blocchi, diciamo, c'è una grande parte sulla Francia, c'è un'immensa tradizione liberale nell'Ottocento in Francia, anche prima, ma nell'Ottocento è molto fondamentale e d'abitudine un po' occultato, c'è una grande parte sull'Italia, poi c'è una grande parte sull'ordoliberalismo tedesco e una grande parte sull'Austria con i grandi pensatori, soprattutto Hayek, e poi ci sono alcune cose anche sui paesi svedesi, enfin, del nord, sulla Spagna, sul Portogallo. E queste differenti tradizioni hanno portato dei punti di contatto? Quali sono le caratteristiche principali di questo liberalismo? Beh, è il liberalismo che si conosce, come dire, la solidarietà fra libertà politiche e libertà economiche. Voi in Italia da Croce avete questa opposizione fra liberalismo e liberismo, e anche in Francia spesso si oppone libertà politica e libertà economica. Il punto di vista generale del libro è che il liberalismo è un'unità delle libertà e che le libertà economiche sono fondamentali per le libertà politiche. Come spiega lei questa tradizione che ha ricordato, questa polemica famosa che ci fu fra Croce e Einaudi, fra il liberalismo e il liberismo? Negli altri paesi non si parla di liberismo. No, fa una questione di vocabolario, ma in Francia, anche se non c'è questa opposizione di parole, c'è l'equivalente. Molte persone sono liberali a livello politico e radicalmente contro il liberalismo economico. E noi, il nostro punto di vista è che il liberalismo economico fa parte delle libertà fondamentali. Ecco, proprio il liberalismo economico in questi anni è molto sotto attacco. E voi ricordate nell'introduzione che addirittura c'è un errore logico secondo il quale il liberalismo è necessariamente malvagio. Come nasce questo errore così marchiano? Ci sono parecchie cause di questo. Forse una delle più importanti è che il liberalismo, anche se non riesce sempre, può riuscire abbastanza bene. E quando riesce abbastanza bene, permette a alcuni gruppi di avere un potere immenso. E tutti i gruppi che hanno un potere importante hanno tendenza a abusare del potere. E dunque è chiaro che il potere economico, il potere finanziario, che è un potere enorme, ha sempre tendenza a abusare del suo potere. Ma questo è un fatto antropologico che ha niente da vedere con il fatto che il liberalismo è un buon sistema o no. Un sistema che si basa anche su un fondamento razionale, a vostro parere. C'è una razionalità fondamentale del liberalismo e la nostra tesi è che se si compara a altri sistemi è un sistema che è molto più efficace, ma come è più efficace ha anche un rischio di nominazione molto più forte. Un aspetto particolare che voi toccate nell'introduzione è quello del rapporto del liberalismo con la religione e le chiese, un tema molto attuale. Voi dimostrate che appunto non c'è una tradizione esclusivamente laica nel liberalismo. Come leggete questo rapporto oggi? Sì, allora là è un po' la complementarità fra Philippe Nemo e io. Io sono un scienziato, mi interesso al liberalismo moderno, all'economia matematica, a modelli della mano invisibile, le relazioni fra il liberalismo e la complessità del mercato, la complessità economica, e Philippe Nemo, lui è molto più interessato della storia delle idee politiche e ha mostrato che ci sono delle radici abbastanza lontane del liberalismo dal lato del cristianesimo, ma anche dal lato del diritto romano, dall'antichità, che diciamo il liberalismo è una parte integrante della civiltà occidentale. Quali sono a suo parere le carte che il pensiero liberale può giocare oggi, soprattutto in Europa, in questa situazione di crisi, che ha fatto diminuire molto la fiducia nei grandi sistemi di idee? Non c'è per niente un fallimento del liberalismo. Il liberalismo è qualcosa che ha una grande efficacità, ma che ha anche una certa violenza. Allora il problema è che l'Europa in generale non sa bene come proseguire, continuare l'evoluzione del suo liberalismo. Ma se si guarda i grandi paesi emergenti, sono dei paesi che sono radicalmente liberali, con delle nuove impostazioni politiche. Forse il caso il più spettacolare è quello della Cina, dove una politica molto centralizzata si mette al servizio del liberalismo. C'è una specie di comunismo liberale in Cina, ma in grandi paesi come l'India, come il Brasile è la stessa cosa. Dunque questi sono il futuro del liberalismo, riescono in una maniera stupenda, ma l'Europa è un po' in crisi a livello dei valori e non sa adattarsi a questa mondializzazione liberale. Quindi secondo lei la Cina potrebbe diventare un paese del tutto liberale? Ma è già a livello economico, completamente dal lato liberale, ma non politicamente, è qualcosa di nuovo, cioè una specie di specificità storica. Il problema del liberalismo è che fa progredire l'innovazione, fa progredire, come dire, tutte le possibilità di ricchezza delle nazioni, come diceva Adam Smith, ma lo fa con una certa violenza. Dunque si deve sapere se si preferisce avere delle società molto più semplici, molto più solidarie, ma molto meno potenti e efficaci, o no. Questo è un dilemma che è quasi un dilemma morale, un dilemma culturale. Grazie a Jean Petitot, curatore con Philippe Nemo di Storia del liberalismo in Europa. Buona domenica. Grazie a lei. Un letterato che si è spostato dalle originarie posizioni di sinistra su un versante convintamente liberale è il premio Nobel Mario Vargas Llosa, di cui Einaudi pubblica La civiltà dello spettacolo, 184 pagine, 17 euro, tradotto da Federica Niola. La cultura, scrive lo scrittore, è stata eclissata dallo spettacolo. Lo scrittore peruviano critica la tendenza in atto, quella secondo la quale, scrive, l'unico modo di ottenere una democratizzazione universale della cultura consiste nell'impoverirla, rendendola ogni giorno più superficiale. La trasformazione della naturale propensione a divertirsi, aggiunge, in un valore supremo, ha conseguenze inaspettate, e cioè, dice Vargas Llosa, la banalizzazione della cultura, la generalizzazione della frivolezza e, nel campo dell'informazione, la proliferazione del giornalismo irresponsabile basato sul pettegolezzo e sullo scandalo. Come sentite, ne ha per tutti e insiste molto sui giornalisti, per esempio quando scrive che la funzione critica del giornalismo è stata in molti casi distorta dalla frivolezza. La frenetica ricerca dello scandalo e il pettegolezzo a buon mercato che si accanisce contro i politici in molte democrazie ha avuto come conseguenza che il grande pubblico conosca meglio di queste persone soltanto il peggio che sono in grado di mostrare. E quindi la politica si riduce a una farsa di fantocci, scrive Vargas Llosa. Insomma, è una vera e propria catastrofe culturale quella che Vargas Llosa tratteggia in questo libro, molto forte nelle opinioni che esprime, e nel quale Vargas Llosa affronta anche un tema che sicuramente sta a cuore a tutti coloro che ascoltano questa trasmissione, cioè il futuro dei libri, la cultura. Che posto ha la cultura dei libri in una società sempre più abituata a trafficare su marchingegni elettronici? Sentiamo come risponde un po' sconsolato Vargas Llosa. Questi studenti non hanno colpa se sono ormai incapaci di leggere Guerra e Pace o Don Chisciotte, abituati a beccare qua e là informazioni con i loro computer, senza la necessità di compiere sforzi di concentrazione prolungati. Hanno perso l'abitudine e persino la facoltà di farlo, e sono stati indotti ad accontentarsi dello sfarfallare cognitivo cui li abitua la rete, con i suoi infiniti collegamenti e salti verso allegati e complementi, al punto che sono in qualche modo vaccinati contro il genere di attenzione, di riflessione, di pazienza e di prolungato abbandono a ciò che si legge, e che è l'unico modo di leggere, traendone piacere, la grande letteratura. Ma non credo che soltanto la letteratura sia diventata superflua a causa di Internet. Ogni opera di creazione gratuita, non subordinata a un uso pratico, viene esclusa dal tipo di conoscenza e di cultura che fornisce il web. Senza dubbio questo immagazzinerà più facilità Proust, Omero, Popper e Platone, ma difficilmente le loro opere avranno molti lettori. Perché sobbarcarsi la fatica di leggerle se in Google posso trovare sintesi semplici, chiare e amene delle invenzioni contenute in quei libroni farraginosi letti dai lettori preistorici? Un libro tira l'altro. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. A proposito di civiltà dello spettacolo, di intellettuali inutili, di giornalisti che tradiscono la loro professione, vi segnalo un titolo che ha avuto un grande successo in queste settimane, cioè La grande bellezza di Paolo Sorrentino. Adesso del film esce la sceneggiatura, che è stata curata dallo stesso Paolo Sorrentino e da Umberto Contarello, che è un famoso scrittore e sceneggiatore. Il libro è stato pubblicato da Schirà, 218 pagine, 15 euro, e chi ha apprezzato il film troverà modo di immergersi anche in alcune battute particolarmente riuscite della pellicola. Se Giuseppe Gambardella è il modello di un giornalismo in declino, la vicenda di un altro grandissimo giornalista, quello della vecchia scuola, troviamo nel libro del figlio dello stesso giornalista, cioè Alexander Stille, che è figlio di Ugo. Il libro si intitola La forza delle cose. Un matrimonio di guerra e pace tra Europa e America, è pubblicato da Garzanti, 470 pagine, 24 euro. Il giornalista era nato a Mosca come Mikhail Kamenetsky e sarebbe diventato noto come Ugo Stille, cioè con lo pseudonimo che aveva adottato già durante il fascismo, quando era interdetto agli ebrei scrivere su giornali italiani. Il giornalista assume questo nome perché Stille in tedesco significa silenzio e condivide questo pseudonimo col compagno di scrittura di allora, e cioè Jaime Pintor, il futuro martire antifascista. Quando questo poi fu ucciso, Stille, che nel frattempo è emigrato negli Stati Uniti, adottò proprio quel nome come cognome legale nel paese, a stelle e strisce. Stille, spiega il figlio, era un prodotto di quella civiltà ebraica dell'Europa orientale che Hitler ha quasi completamente distrutto, una cultura nella quale i libri e l'apprendimento occupavano un posto sacro, perché ogni altra cosa nella vita ti può essere strappata e probabilmente lo saprà. E infatti Stille era ossessionato dai libri, dalle carte che divoravano e consumavano ogni angolo delle sue case, mettendolo in insanabile contrasto con la moglie americana. Il nonno Kamenetsky era un ebreo russo che in gioventù aveva avuto a che fare con D'Annunzio, almeno così aveva vantato, per essere ammesso in Italia. Qui cresce Mikhail, che con la famiglia poi emigrerà negli Stati Uniti nel 1941, dove inizia la sua carriera di giornalista, che sarà coronata dall'ingresso al Corriere della Sera dopo che Stille era tornato in Italia con l'esercito americano. Aveva conquistato l'assunzione al Corriere con un episodio degno di un film, cioè aveva inseguito Alcide De Gasperi, che si trovava negli Stati Uniti, esattamente nella sede del consolato italiano a New York, per una importante missione internazionale. L'aveva inseguito fino in camera da letto, anzi l'aveva svegliato dal pisolino che il presidente del consiglio stava facendo in quella camera da letto. Stille era una personalità geniale e contraddittoria. Per esempio, dice il figlio, aveva una grande idiosincrasia verso il lavarsi, e quindi la sua storia assume davvero una dimensione insolita e in certi casi unica. Centrale nell'esperienza di Stille naturalmente fu la direzione del Corriere, che il giornalista accettò solo nell'87, dopo che gli era stata già offerta qualche anno prima una responsabilità che contraddiceva con le sue abitudini. E infatti, a questo proposito, Stille figlio scrive queste parole. In famiglia fummo sbalorditi da questo sviluppo inatteso nella vita di mio padre e nostra. Come avrebbe fatto quell'uomo da sempre abituato a lavorare in pigiama, in solitudine, incapace di controllare anche solo le pile di carta stampata della sua camera da letto, a dirigere da un giorno all'altro le centinaia di altre persone che lavoravano per uno dei principali e più grandi quotidiani europei? Ci sembrava strano scegliere per quell'incarico un 67enne, con il cuore malandato, che non aveva mai fatto il caporedattore, né aveva mai concretamente lavorato al giornale, e che per giunta aveva lasciato l'Italia 46 anni prima. Torniamo alla cultura banalizzata e ricordiamo che naturalmente sul banco degli imputati per questo esito viene messa da molti anni la televisione, la cui storia in realtà va letta con attenzione, come fa il volume curato da Aldo Grasso, uno dei più importanti critici televisivi italiani, intitolato Storie e culture della televisione italiana, pubblicato da Mondadori, 466 pagine, 15 euro. Troviamo in questo libro i maggiori esperti della televisione che discutono dei vari aspetti, dagli scenari al rapporto con la politica, al rapporto con la lingua, all'immaginario trasmesso con le fiction, al rapporto fra la televisione e il cinema, all'invasione del modello americano, la pubblicità, ai mercati, al digitale. La TV è sempre stata criticata e considerata addirittura diseducativa. Grasso ricorda una celebre affermazione di Alberto Moravia secondo il quale il pubblico della televisione è un pubblico di serie B. Grasso parte nel suo saggio dall'analisi di tre programmi che sono rimasti nella storia della televisione, cioè Lascio Raddoppia, Portobello e Il Grande Fratello, assunto a sua volta come modello per la TV spazzatura. Anzi, scrive Grasso, la trasmissione che ha collezionato più esecrazioni e insulti, modello esemplare di caduta del gusto, di trionfo della mediocrità, di degenerazione dei costumi, e la sconfitta del ceto medio riflessivo, quello che oggi ama i programmi in bianco e nero lodandone la professionalità, ma ieri quando andavano in onda li disprezzava e condanna irrimediabilmente quel poco di presente che conosce. E invece anche Il Grande Fratello è un format innovativo, come spiega Grasso, che ci invita a leggere questi modelli con maggiore pazienza, con maggiore attenzione. Su questo tema torna fra l'altro per esempio Gianni Canova, che parla della rappresentazione della TV nel cinema italiano, e parte proprio dal film Reality di Matteo Garrone, nel quale si parla appunto del Grande Fratello. Scrive Canova che Garrone porta alle estreme conseguenze quel rapporto complesso e ambivalente fatto di ostilità e di diffidenza, ma anche di sotterranea e neanche troppo implicita fascinazione che il cinema italiano ha sempre intrattenuto con la televisione. E nel film allora Il Grande Fratello diventa l'occasione perfetta, scrive Canova, per mettere in scena le presunte aberrazioni patologiche che il feticismo del reale proprio della televisione può generare in alcuni telespettatori. Si parla anche di politica, di lottizzazione in un rapporto tra televisione e politica che ha dato vita a un bipolarismo, quello vero, non fra centrodestra e centrosinistra, ma quello tra partito Rai e partito Fininvest. La Seconda Repubblica, nota il libro, è nata dalla televisione. Insomma, a chi è preoccupato che si diffonda il modello greco, e avremmo forse qualche cosa da imparare da quell'esperienza, troverà in questo libro molto materiale su cui riflettere. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto il libro La Sapienza del Cuore, pubblicato da Einaudi, 760 pagine, 28 euro, che rappresenta un omaggio a Enzo Bianchi, il priore della comunità monastica di Bose, in occasione del suo 70° genetliaco. Molti, moltissimi amici che troviamo qui che offrono riflessioni sui temi di propria competenza. Vi segnalo per esempio il breve saggio di Giovanni Bazzoli che parla del rapporto tra Chiesa e capitalismo. Poi vi segnalo un romanzo di un grande scrittore francese, Georges Simenon, di cui Adelphi sta pubblicando i titoli. Questo si intitola Faubourg, 136 pagine, 16 euro, tradotto da Massimo Romano. È un romanzo del 1935 su un avventuriero di provincia che ritorna nella profonda provincia francese dalla quale era partito, suscitando curiosità e tensioni. E poi due romanzi storici. Il primo è quello di Luca Di Fulvio, che si intitola La ragazza che toccava il cielo, pubblicato da Rizzoli, 798 pagine, 16,90 euro. Questo è ambientato tra Roma e Venezia nella prima metà del Cinquecento ed esplora tra l'altro il tema del rapporto con gli ebrei. L'altro invece è ambientato a Milano qualche secolo prima, perché siamo alle origini del potere dei Visconti, quindi a metà del Trecento. Il libro è quello di Luigi Barnaba Frigoli, La vipera e il diavolo, pubblicato da Meravigli, 352 pagine, 17 euro, un romanzo molto documentato anche da un'appendice storica sulle trasformazioni della città di Milano che proprio in quegli anni si avvia a diventare una delle cose più importanti d'Italia grazie al consolidarsi del potere dei Visconti dopo la dura battaglia all'interno della famiglia per conquistare appunto la supremazia. E a questo punto il confettino. Vi segnalo un libro sui bambini che stanno per lanciarsi nei primi passi e anche un libro per i loro genitori. Si intitola Le mani di papà e di Emile Jadoul, è pubblicato da Baba Libri, tradotto da Federica Rocca, 12 euro. E con questo ringrazio Laura Vanossi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.